che cosa è lontananza, dico ignoro la distanza, ma quando l'ho raggiunto e giro intorno alla mia idea, con pazienza ed umiltà, è un lavoro soprattutto che richiede assiduità. Il segreto non conosco, il perché mi sfugge ancora. Faccio un po' quello che posso, dico quello che mi va e pesco in fondo al mio, in fondo al mio barile, con la voglia di sapere come poi andrà a finire. Tutto fa brodo in una canzone, le pene d'amore, la libertà, un paio di corna, la figlia e l'amante, la politica, ma tutto va bene in una canzone, l'amico che parte, la squadra del cuore, il caso sociale, un bimbo che nasce, la nonna che muore, facciamo un puttanaio di emozioni e ficchiamole dentro, ficchiamole dentro alle canzoni. Esempio stamattina ho avuto l'illuminazione, mentre stavo sopra il cesso ho iniziato una canzone ed ecco il primo verso, è arrivata poi la rima, ho preso un foglio e col mio estro ho tirato fuori il pezzo. Ai suonatori un poco in crisi, che non sanno come fare e non hanno più argomenti, gli consiglio di cagare, certo, come d'incanto troverete l'ispirazione fra i miasmi della vita, comporrete la canzone. Tutto fa brodo in una canzone, le pene d'amore, la libertà, un paio di corna, la figlia e l'amante, la politica, ma tutto va bene in una canzone, l'amico che parte, la squadra del cuore, il caso sociale, un bimbo che nasce, la nonna che muore, facciamo un puttanaio di emozioni e ficchiamole dentro, ficchiamole dentro alle canzoni.